X24 di Giovanni Minoli. Un'azione mai vista prima per dimensioni, per la sua natura chiaramente ricattatoria. Cybercriminali che non si sa da dove abbiano agito e che hanno mandato in tilt sistemi informatici in mezzo mondo. Danni incalcolabili su scala mondiale, colpendo istituzioni, aziende pubbliche e private. Secondo Banca d'Italia, nel nostro paese un'impresa su tre è stata vittima dell'attacco. Un gruppo non identificato di hacker è riuscito ad appropriarsi di un film inedito della Disney, niente meno che il quinto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi. Soprannome Malware Tech. Molti già lo definiscono un eroe. È un ragazzo inglese di 22 anni, l'unico finora capace di arginare WannaCry. Vita da pirata. Con i pirati in carne, ossa e computer, però, è meglio non scherzare. Buongiorno, bentornati su Mix24, un cyberattacco planetario, quello che è in corso da venerdì scorso. Secondo Europol sarebbero 100.000 sistemi colpiti in 150 paesi del mondo. E dopo questo weekend la situazione dei computer colpiti potrebbe ancora peggiorare. Giuliano Tavaroli, buongiorno, esperto di sicurezza informatica. Siamo sotto attacco, ma da chi? Buongiorno, siamo sotto attacco, forse... lo siamo sempre stati, questo ultimo evento ci ha dimostrato ancora una volta come la nostra economia digitale sia intrinsecamente insicura. Fragilissima, ecco. Ecco, gli hacker sono un esercito transnazionale, l'abbiamo visto, è capace di mandare in crisi anche gli stati. Insomma, sembrano più forti degli stati. Beh, guardi, è persino, come dire, no? Difficile da credere, ma il dominio, cioè oggi il vantaggio competitivo sullo spionaggio elettronico è di questi gruppi di hacker, Shadow Broker, che è quello che ha rilasciato la vulnerabilità che poi è stata usata per l'attacco APT-32, Bureau 121 della Nord Corea. In realtà sono al servizio degli stati, ma non solo. Sono al servizio di se stessi, cioè servono anche per estorcere, abbiamo visto, per fare ricatti, estorcere soldi, insomma. È notizia di oggi che le Filippine, il Vietnam, ha reclutato AP-32 per fare intelligence di Stato. I governi sono in ritardo, gli stati sono in ritardo. Ho letto giorni fa una notizia divertente, che gli Stati Uniti, che non riescono a reclutare i cyber warrior, li dispenseranno dall'addestramento formale, perché gli ingegneri non andavano nell'esercito a fare i cyber warrior se gli facevano strisciare nel fango. Ma secondo i ricercatori Avast, che è una società produttrice di antivirus, i paesi più colpiti sarebbero Russia, Ucraina e Taiwan. Questo potrebbe avere un significato oppure forse non è neanche vero? No, non è neanche vero, nel senso che è sorprendente che, visto che questo attacco attaccava un sistema molto vecchio come Windows XP, probabilmente questi paesi avevano un numero ancora molto alto di sistemi che facevano affidamento a questo sistema operativo che Microsoft ha di fatto ritirato quasi dal mercato. Sì. Però è chiaro che l'aggiornamento tecnologico è anche un elemento di difesa, l'investimento in tecnologia e sicurezza è un elemento di difesa. Ecco, senta Tavaroli, ma com'è possibile che un mondo che peraltro è sempre più digitalizzato e dipende dalla sua digitalizzazione si scopra invece sempre più vulnerabile, non ha sviluppato parallelamente gli anticorpi, diciamo in qualche modo? Perché? Perché quale vantaggio hanno queste persone, questi hacker? È che loro dedicano 24 ore della loro vita da anni a capire le vulnerabilità dei sistemi. E quindi sono sicuramente con un grande vantaggio competitivo. Noi parallelamente non investiamo in cultura di sicurezza, abbiamo, come ci siamo detti già l'altra volta, certo, con lei, c'è un ritardo anche di professionisti, stimati in milioni di professionisti. Certo. In questo nostro periodo dove c'è crisi di lavoro, bisognerebbe assolutamente sviluppare le professionalità. Uno parla di formazione, facciamo formazione in questa direzione, perché gli ospedali, le amministrazioni pubbliche, gli enti governative in qualche modo ignorano le regole base della cybersicurezza. Assolutamente sì, ma ignorano anche la vulnerabilità della stessa tecnologia. Credo che si prenderanno delle misure nel mondo per obbligare le grandi aziende ad avere un esperto di tecnologia nel consiglio d'amministrazione. Per forza. Lo dovremmo avere negli ospedali. Ci sono alcuni ospedali, però il sistema Italia ospedaliero, devo dire, sì, anche quello privato e pubblico, ha fatto una buona figura. Tutto sommato vuol dire che almeno a livello tecnologico forse non eravamo così indietro dal punto di vista dei sistemi. Però è ovvio che è tutto ancora in divenire, è tutto ancora da giocare. Ecco, Tavaroli, sulla cultura è da farsi. Ecco, lo Stato italiano però da pochi anni ha cominciato a preoccuparsi in maniera seria del problema. Abbiamo oggi un livello di difesa sufficiente oppure no? Ma questa è una domanda, allora, una domanda importante. La Lombardia ha risposto l'altro giorno e devo dire ho trovato notevolmente centrata la risposta, dicendo: faremo una cabina di regia, verificheremo lo stato dei sistemi, né io né lei, ma molti nello Stato italiano non sappiamo di adeguamento ai rischi dei nostri sistemi. Bisognerebbe fare una grande campagna di, prima di tutto, comprensione delle nostre vulnerabilità. Certo, naturale. Ecco, il passaggio alla politica è una questione di un attimo. Cioè, abbiamo visto come le spie informatiche possono condizionare il dibattito politico, perfino le elezioni. Quali sono stati i più attivi in rete con gli hacker? I più attivi? Beh, ovvio che abbiamo visto il caso imputato alla Russia, ma esatto, ai cinesi, di condizionamento delle elezioni americane, si è detto, addirittura di tentativo di condizionamento delle elezioni francesi. Ma è molto difficile trovare l'impronta digitale. Noi pensiamo che un crew di hacker russi lavori per il governo russo, ma non è detto, non è detto per niente, appunto. E non è neanche probabile. Esatto. Quindi voglio dire, c'è la... Cioè, uno dice la Russia perché non sa cosa dire, tanto per essere sicuro di aver fatto un nome. Sì, ma anche perché magari l'attacco è partito da un server russo. Sì, server, sì, ma che non coreano, vuol dire niente, insomma, ma che non vuol dire, dire niente. Non vuol dire niente. Ecco, adesso per esempio le rivelazioni dei leak, no? Hanno messo Trump in crisi, in questo momento, crisi reale o apparente, ma c'è una guerra di intelligence in corso dentro l'amministrazione a Washington. Ma ovviamente c'è una guerra di informazioni. Io mi sono fatto una domanda, no? Sì. Adesso l'amministrazione Trump, che è molto non convenzionale rispetto alla, certo, comunicazione, ha inventato un altro modo di comunicare, certo. Esattamente, ma uno dice, nel colloquio fra Trump e i russi, lui ha rivelato delle informazioni, sì, assolutamente che non doveva rivelare, ma penso che saranno stati in quattro lì dentro. Chi l'ha detto? Cos'è successo durante l'incontro? Esatto. Cioè, mi sembra che, come dire, qui la riservatezza ormai in questa spettacolarizzazione della politica, delle informazioni, della disinformazione, abbia raggiunto veramente dei livelli di avanzamento. Cioè, diventa difficilissimo davvero sapere chi ha fatto cosa e perché. Esattamente, non c'è più confine tra vero, verosimile, falso. Ma e questo... quindi anche andare a capire, diventa difficile. Tutti spiano, è sempre stato così, obiettivamente, la storia dello spionaggio è la storia dell'umanità. Ma perché ci si scandalizza di più se si attribuisce ai russi il fatto di farlo? Ma che pensi, è sempre stato come la CIA, come il Mossad, come lo SDEC. Perché? Cioè, la CIA, l'NSA, non è che fanno la stessa cosa, l'NSA? Non fabbricano mica caramelle. Lo fanno in qualità industriale, ma poi non solo. Allora, l'attacco di cui abbiamo parlato all'inizio, sì, la vulnerabilità, cioè la tecnologia, se la sono fatti fregare quelli dell'NSA. Certo. Cioè, la più grande azienda di spionaggio mondiale che perde i loro attrezzi per strada. Cioè, per strada, siamo veramente... No, è bello perché rende umano tutto questo, sì, anche, in qualche modo. Senta, ma lei cosa ha capito della storia che ha condotto al licenziamento del capo dell'FBI da parte di Trump? Ma mi sembrava molto il dibattito sulla magistratura italiana. Uno fa il suo mestiere, quindi quando sbaglia un candidato presidenziale deve fare il suo mestiere, poi dopodiché magari sbaglia un nominato dal nuovo presidente, allora non deve fare più il suo mestiere. È chiaro che il tema Flynn, i rapporti magari impropri, poi deciderà il congresso prima delle elezioni. Quindi anche su questo tema devo dire che gli Stati Uniti ormai, l'Italia fa modello. Ecco. Cioè, abbiamo insegnato a tutti il casino, diciamo, ecco, sostanzialmente. Senta, Putin darà, a proposito di casino, Putin darà a Gentiloni le trascrizioni dei colloqui tra Trump e Lavrov? Eh? Cioè l'Italia in questo caso può fare in realtà da postino, da ponte, da mediatore, non lo so. Ma non lo so, io credo che quello che farà la Russia, e mi sembra anche di notizia di oggi, è di provare a dare una mano all'Italia a svolgere un ruolo importante sulla Libia, che è dove onestamente abbiamo il problema serissimo, proprio poi, il problema strategico dei prossimi anni, numero uno. Anche di prossimità, dove la palla veramente si gioca, perché non dimentichiamo che oggi, al di là della Nord Corea, certo, il vero tema sono le relazioni sunniti sciiti, assolutamente, Iran, Iraq, Arabia Saudita, scenari troppo vicini a casa nostra. Quindi noi, in fondo, a cosa serve l'Italia, si chiedeva Limes, ieri abbiamo fatto la puntata, mi sembra che la partita da giocare per l'Italia sia una partita ancora molto importante. Ma oggi siamo stati rimessi in gioco, sì, se non altro per la solita posizione strategica che la storia e la geografia ci ha segnato. Esatto. Poi nel passato non sempre siamo stati capaci di usarla. Di usarle e di, come dire, esercitare un ruolo strategico anche attraverso le nostre strutture di sicurezza, che sono molto capaci, che ci viene assegnato. Senta, le faccio un'ultima domanda, la ringrazio Tavaroli, ma come finirà davvero la storia in America? Lei crede alle possibilità di un impeachment del presidente americano? Beh, sicuramente ci proveranno tutta la presidenza, perché questa è un'elezione talmente fuori dagli schemi che sono saltati tutti gli equilibri interni agli Stati Uniti. E rischia di far saltare tanti equilibri anche internazionali. Naturalmente. Oggi c'era una notizia su un giornale americano che diceva: la comunità dei professional di Washington è insorta contro il licenziamento di Comey. Quindi la burocrazia di Washington, sì, che lei sa è molto potente, certo, non digerisce, certo, questa, sì, scelta. Si sente attaccata direttamente proprio. Grazie Tavaroli, alla prossima volta. 80... Buona giornata e buona trasmissione. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Mario, insomma è interessante, perché cioè, in ogni caso è una guerra nuova non convenzionale che si combatte all'esterno fra stati, ma all'interno fra burocrazie, come ci ha detto bene Tavaroli. Sì, sì, mi sono divertito tantissimo a sentire Tavaroli. Sì. Solo una cosa, pare abbastanza evidente che il giorno in cui decidono di attaccare massicciamente anche i sistemi italiani ne vedremo probabilmente delle belle. Si è fatto un gran discutere, certo, a livello di governo, ti ricorderai, mesi fa, sulla nomina, appunto, che ne so, sì, di Carrai infatti, all'interno, in realtà, la percezione di un'esigenza. Sì, in realtà il problema non era certamente il nome, il problema, certo, era che c'è un tema vero, certo, urgente, sempre quello di più, e che non è stato ancora, secondo me, affrontato adeguatamente, ecco, anche a livello di opinione pubblica. Infatti, assolutamente. Adesso, diciamo, appunto, per ragionare sul dal grande, dal macro al micro, ecco, cerchiamo di capire come agiscono, come si presentano questi virus che hanno messo in ginocchio sistemi di tutto il mondo, anche nel piccolo. Simone Baldone è un tecnico informatico, lei si occupa di manutenzione, scusate, di computer per clienti che hanno delle attività che sono state colpite da virus simili a quelli che, di cui abbiamo parlato. Ecco Simone, come arriva il virus? Quello che è la mia esperienza, la strada che ho sempre utilizzato è quella tramite una mail mascherata come un gestore di energia elettrica. Quindi arriva una mail che noi riconosciamo, sì, come qualcuno che è possibile che ci scriva, il mittente sembra sicuro, e poi cosa capita? Come si diffonde il virus? All'interno della mail c'è un allegato che sembra un semplicissimo PDF, quando invece, sì, è un eseguibile. Nel senso che l'utente non si accorge nemmeno di quello che sta succedendo, perché lavora completamente background, non ha interfaccia grafica, sì, non si vede. Una volta aperto inizia il suo lavoro, ovvero quello di criptaggio dei file. Quindi se io apro l'allegato rischio, se non lo apro sono salvo. Perché rischia, diciamo che avvia un processo che, certo, finché non viene interrotto, lui continua a fare tutti i danni del caso finché nessuno lo ferma. Ma se non apro l'allegato, invece, posso aver aperto la mail, ma non aprendo l'allegato non capita niente. Assolutamente. Come faccio a capire se il mio computer ha preso il virus? Cosa succede al computer? Non ha hai più accesso a file. E cripta, nel senso che imposta un codice impossibile da recuperare, se poi non viene rilasciato un tool da chi ha inventato questo processo, quel file è praticamente perso. Ecco, però abbiamo visto questa cosa clamorosa del riscatto chiesto per il film alla Walt Disney. Ecco, ai suoi clienti è capitato di avere richiesto un riscatto per riavere in funzione i propri computer, sì, per riavere i propri file, per cosa? Esatto, per riavere i propri file. Purtroppo chi non è coperto da un sistema di backup professionale, ovvero che comunque non è possibile da raggiungere tramite comunque cartelle di rete o così, è andato tutto perso, quindi sono stati costretti a pagare questo riscatto che può valere di prezzo. Inizialmente i primi usciti si parlava di cifre intorno ai 300-400 euro, 500 euro, poi piano piano dal fine 2016, anzi forse anche metà 2016, ad oggi siamo arrivati a delle cifre assurde, cioè 1000-2000. L'ultimo che mi è capitato con l'ultimo cliente, ho provato a fare una procedura di riscatto, mi hanno chiesto ben 7000 euro. E hanno pagato tutti, naturalmente, perché non si può fare a meno. 7000 euro non se ne parla proprio. No, e non se ne parla. E dei file, che cosa capita? File, purtroppo siamo in attesa che qualcuno si impegni, diciamo, a trovare una soluzione gratuita o quantomeno a un prezzo più onesto, anche se di onesto qui non c'è niente. E a quel punto si recupera il contenuto, altrimenti hanno perso tutto, anni e anni di lavoro. Quindi alla fine si finirà per pagare il riscatto? Non credo. No, senta, ma una volta preso il virus è impossibile bloccarlo, cioè se uno si accorge subito, prendo subito, diciamo così, questo virus, che una volta spento il computer o comunque un semplice avvio, blocca l'esecuzione di questo virus. I danni sono definitivi oppure in qualche modo i file possono essere ritrovati? Lui ti rilascia un tool che, diciamo, ripristina lo stato del file prima di essere criptato, per cui toglie quel blocco e tutto riparte come prima. E lo può fare soltanto chi l'ha criptato, cioè soltanto chi ha fatto l'operazione di hackeraggio. Sì, a distanza, ormai è circa più di un anno che è uscito questo tipo di minaccia, e quindi qualcuno si è impegnato a rilasciare dei tool gratuiti per recuperare questo tipo di file. No. Comunque, diciamo che nel suo caso la maggioranza dei suoi clienti hackerati non hanno pagato il riscatto e in qualche modo sono riusciti a salvare il loro file. I clienti che seguo io personalmente sono tutti comunque strutturati in modo che qualsiasi cosa succede, comunque i dati si recuperano, hanno dei backup automatici su più, diciamo, soluzioni, nel senso che oltre a effettuarlo su un ipotetico disco esterno, si effetto anche su di altri sistemi un po' più avanzati che non sono raggiungibili da, ecco, da un percorso di rete o comunque da un utente classico come può essere anche questo virus. Cioè, diciamo che per chiudere è un problema che in qualche modo si sta provando ad affrontare in modo sistematico. Più che in modo sistematico, purtroppo è in continua crescita o continuo sviluppo più che altro, perché ripeto, inizialmente facevano un tipo di criptaggio, ora ne fanno un altro, nel senso che ora i file rimangono intatti, non cambia nemmeno l'estensione del file, per cui sembra come se non fosse successo nulla, quando invece quando si va a aprire il file si dice che è corrotto o comunque inaccessibile, per cui ci lavorano sopra. Va bene. Questi truffardoni. Ecco Mario, la cosa che fa più effetto è che questi virus che distruggono migliaia di computer in tutto il mondo poi vengono sconfitti da un ragazzo di 20 anni che con poca, con pochissima spesa e con solo la sua intelligenza, cioè, ecco, come è successo in questo caso praticamente? È il codice, è sempre una questione di linguaggio, cioè se tu hai il codice che scardina quello che hanno messo in piedi appunto gli hacker, sei a posto. Costava pochissimo, quasi niente. È stato molto intelligente perché ha detto vediamo se funziona. Ha provato a inoculare, no? Dentro l'organismo che stava morendo questa soluzione, l'anticorpo, ed è riuscito. È tutta una questione di codice, è come l'antica crittografia, no? Tu cosa facevi? Chiudevi il linguaggio dentro certo, un sistema di segni, un sistema di segni. Il codice enigma. Certamente, la storia famosissima. Sì. La crittografia veniva scardinata da chi studiava appunto le chiavi. Per entrare. Il mondo è sempre molto antico, Giovanni. Sì. Cambiano i contesti. Sì, cambiano i contesti, cambia la tecnologia, però esatto. Alla fine, se tu vai all'essenza, quello è. E quindi, no, in principio era il verbo. Certo. È sempre così. 800 24 00 24, numero verde. 349 238 6666, l'SMS. Cambiamo pagina. Veronica. Monica Lario versus Silvio Berlusconi 1-0 contro il ricorso dell'ex marito che sperava di spuntarla contro la sentenza che lo obbliga a versare 2 milioni di euro al mese alla ex moglie. L is for the way you look. E forse dopo la sentenza dei giorni scorsi la cosa sembrava possibile, ma non è stato così. I supremi giudici hanno respinto il ricorso del leader di Forza Italia per ridurre i cosiddetti alimenti a Veronica Lario. Perché, spiegano i giudici della Suprema Corte, l'ex premier è uno degli uomini più ricchi al mondo ed è rilevante la disparità dei suoi redditi. Ecco, Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato, matrimonialista, famosissimo. Abbiamo sentito, nei giorni scorsi è arrivata la sentenza della Cassazione che conferma l'assegno di mantenimento a Veronica Lario da parte di Silvio Berlusconi di 2 milioni al mese. Una sentenza diversa però, per non dire opposta, almeno agli occhi profani, ci spiegherà lei perché non è così, a quella di una settimana fa nei confronti dell'ex ministro Grilli, caso in cui invece è stato deciso che alla ex moglie non spetta l'assegno calcolato sul tenore di vita precedente, ma che il parametro a cui fare riferimento sia l'indipendenza o l'autosufficienza economica. Ecco, avvocato, che differenza c'è fra i due casi? Buongiorno, dottore. Allora, c'è una grande differenza, perché l'assegno che è stato riconosciuto alla moglie di Berlusconi è un assegno che riguarda la separazione. Nella separazione il vincolo coniugale permane, cioè esiste il rapporto, esiste ancora il contratto regolato dalla legge, e in questo caso il coniuge più debole ha diritto di essere trattato in modo tale da essere perlomeno a un certo livello che si avvicini a quello del coniuge più forte. Ma e quindi, in attesa della sentenza di divorzio, Berlusconi deve continuare a pagare e solo dopo la sentenza può essere rivisto l'assegno? Certo, ma lì non c'è già stato. No, stiamo parlando, lo stiamo usando come caso, naturalmente. Certo. Che allora, è clamoroso. Tutti, cioè, finché c'è il vincolo coniugale si paga. Quando c'è il divorzio, la coppia finisce, non c'è più un rapporto, il matrimonio, il contratto appartengono al passato e quindi ognuno si deve organizzare da solo per vivere, secondo quel principio che la Cassazione chiama dell'autoresponsabilità. È certamente un principio inopportuno, inappropriato, detto così all'improvviso, quando ci sono coniugi che hanno c'è tutta una storia naturalmente. Ma quanto può durare l'attesa? L'attesa. No. L'attesa, no, un po' di assurdità c'è anche in questo, perché oggi col divorzio breve, dopo 6 mesi o un anno dalla separazione, si può divorziare. Quindi non ha neanche senso ragionare in termini di assegno di separazione che poi dopo certamente se sono sei mesi. Ci vorrebbe un atteggiamento dei giudici molto più concreto e pratico e da considerarsi il rapporto a tutta la vita coniugale. Ecco. Il fatto che oggi siano cambiate le regole, ci siano delle persone di altre generazioni, donne che hanno rinunciato al lavoro, è assurdo, perché non è che dall'oggi ci vuole un tempo di passaggio in ogni caso, no? Un tempo di passaggio. Io confido che la discrezionalità dei giudici e l'attenzione degli avvocati faccia in modo che non ci siano donne che poi debbano vivere più o meno con la pensione sociale. Senta, ma sempre per restare con l'esempio di Berlusconi, che serve come paradigma a livello massimo, diciamo così, ma ci sono probabilità che dopo la sentenza definitiva di divorzio tra Berlusconi e Lario si arrivi a una rinegoziazione, oppure de facto automaticamente arriva l'indipendenza e l'autosufficienza economica come unico criterio? Allora, essendoci già il divorzio, perché il divorzio c'è già, questo assegno di separazione si riferisce solo al passato, non è che lo percepisca in questo momento la moglie. Ah, quindi diciamo da oggi in poi vale l'indipendenza e l'autosufficienza? Va vale quello che è stato fissato in sede di divorzio. Io non conosco la procedura di Berlusconi, no, non certo, sono io che lo seguo, quindi sì, non so a che punto è della pratica, diciamo. Ma io ho sentito che in Cassazione c'è in discussione anche l'assegno di divorzio, perché questo succede con queste leggi che fanno cambiare i tempi, certo, della separazione, del divorzio, eccetera, e si sovrappongono delle cause. Ecco, ma in questo caso, per esempio, come si calcola il corrispettivo dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica? Ecco, bravo, questa è la vera domanda, questo è il vero problema che tutti noi avvocati, giudici e coniugi deboli avremo, perché o ragionano nei termini si può vivere con 1.000-1.100 euro al mese, perché tante persone vivono con, certo, 1.100 euro al mese. Certo, allora, sei in grado di vivere con 1.000, se non sei in grado ti diamo l'assegno. Come te lo diamo? Di 1.100? A quel punto sarà la bravura degli avvocati di dire: però ci sono altri parametri, c'è la durata del matrimonio, ci sono le ragioni che hanno portato alla frattura coniugale, c'è il contributo che ha dato il coniuge debole alla formazione della carriera, certo, tutti strumenti di difficilissima valutazione, di naturalmente difficilissima, anche perché rimessi al potere discrezionale del giudice, al giudice che, come lei accidenti, sa, da 40 anni sono dei poteri assolutamente personali, soggettivi, dipende da giudice a giudice, insomma, proprio, cioè, più che mai, mio amico. Perché quindi l'autosufficienza della signora Lario è un problema affidato alle mani del giudice, no, insomma. Però l'autosufficienza della signora Lario, proprio perché stiamo della signora Lario, proprio perché stiamo parlando in termini quasi paradossali. Sì, assolutamente, ecco, ovvio. Considerato che si è sempre detto che un patrimonio di 80-85 milioni dovrebbe essere sicuramente acclarata, sì, senza indagini e senza potere discrezionale. Diciamo se la può cavare, sì. Vediamo se la Cassazione è coerente, perché come lei ha visto c'è una sentenza emessa dalla prima sezione che addirittura ha scritto non ho neanche bisogno di passare dalle sezioni unite, perché questo criterio del tenore di vita è un criterio ormai superato, antico. E quindi guerra anche all'interno delle singole sezioni della Cassazione? Secondo me sì, perché non era giusto, perché non si può incidere sul diritto vivente, e appunto sul diritto vivente sulla pelle di tante donne, senza magari ragionare a sezioni unite. Senta, un'ultima cosa, ma secondo lei, come ha detto Berlusconi, sono stati usati due pesi e due misure, oppure solo una questione temporale? Beh, insomma, adesso ognuno avrà la sua opinione. No, ma a prescindere da quello che uno pensa di Berlusconi, uno pensa quello che vuole, ma parlo con l'avvocato. Berlusconi, quindi dice di sì. Non è avere una cosa personale, ma guardare proprio concretamente nei fatti, diciamo che non è stato mai usato il miele con lui. Mai favorito. Grazie, mai. Grazie avvocato, grazie. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, cosa ci fai sentire oggi? Luna china, luna vacante, veglia di me a fanno te le porte avanti. Lontano, lontano, nella musica si sente, ma si sente piano, non dà fastidio alla gente. Veglia di lo male, addonami lo cuore, e paga per arrivare, non so stare ore e ore. Ascoltate, gente buona, gente tinta, ascoltate, c'è la tenduria che canta. La luna ieri è rimasta in tasca a tutti i pendolari. Si faceva piccole non per dare piccoli pezzi di sé, ma per allunare tutti e farli poeti. Ha chiamato Orlando, smarrito e senza senno, ha voluto questo brano per Angelica, con un messaggio: prenditi i miei affanni, prenditi il mare e dammi il cuore. Il mare dammi il cuore, mica male. Ah, è romantico, vero? È romantico. Questo Pietrangelo fa stragi. Sì, stragi. Non c'è match con lui. No. Vai con la bolla, va, parliamo di cose che sappiamo. Però con un po' di romanticismo, senti. Via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, davvero. E vai. Penso se avessero eletto Hillary Clinton, Giovanni. A quest'ora noi avremmo due o tre guerre. Già. Sì. E poi una noia mortale, tutto a posto. I giornali direbbero grandiose decisioni, va tutto bene. Politicamente corretto definitivo. Abbiamo rivelato nessun segreto. Se tutto è politicamente corretto, estremamente proprio disteso. Definitivo. Così. Allora, invece è arrivato Trump e noi giornalisti ci divertiamo molto. Dunque. Finirà sotto processo con Tavaroli, ho visto, no? È stato accennato questa cosa. Allora, l'impeachment è possibile. Il problema è che non è una passeggiata democratica sotto il sole fare l'impeachment. Bisogna provarlo. Dopodiché, certo. Come in tutti i sistemi giudiziari evoluti, diciamo così, del mondo occidentale, tutti hanno diritto a quello che si chiama un giusto processo. Certo, Tavaroli ha detto che, diciamo così, la politica americana si è leggermente italianizzata. Ed è vero. Ora, una volta elaborato il lutto della sconfitta, i democratici realizzeranno che per portare Trump in tribunale ci vogliono le cosiddette prove. Allora, uno, il memo di Comey, cioè l'ex direttore dell'FBI, licenziato da Trump, esiste o non esiste? Come le dichiarazioni di Ghizzone, insomma. Sì, però bisogna vederlo. Quindi il Congresso ha già deciso, ha chiesto di acquisire tutti gli atti. Secondo, Comey dovrà andare al Congresso a testimoniare. Che cosa dirà? Terzo, piccola domanda. Ma se davvero Trump aveva fatto pressioni su Comey, Comey avrebbe dovuto dimettersi subito. Perché non l'ha fatto? E poi, last but not least, quarto, i due pesi e due misure. Il 10 aprile del 2016 Obama dice: la Clinton non ha mai, non è stata molto attenta nella gestione delle sue email, ma sicuramente non ha mai inteso danneggiare la sicurezza dello Stato. Benissimo, a che cosa si riferiva Obama? A una inchiesta aperta proprio dall'FBI nei confronti di Hillary Clinton, cioè il Mailgate. Chi era il direttore dell'FBI all'epoca? James Comey. Che cosa fece James Comey? Chiuse l'inchiesta. Che cosa è quella di Obama? Un auspicio? Un'esternazione presidenziale? Una pressione? Un traffico della sua influenza? Che cosa è? Perché i due pesi e due misure sono questi. Se il 10 aprile Obama diceva una certa cosa e l'FBI poi aveva, diciamo, una conseguenza, per così dire, nelle sue azioni, quello di Trump è uguale a quello di Obama. Quindi, diciamo, sempre più Italia per tutti. È molto interessante perché McCarthy, un bravissimo analista della National Review Online, ha spiegato esattamente qual è il tema. Cioè, Trump è sicuramente uno irruento. È sui generis. È così, Trump, altrimenti non sarebbe Trump. Ha detto sicuramente, io sono sicuro che gli ha detto a quello, ma io auspicherei che fosse. Poi? Insomma, siamo d'accordo. L'Italia ha permeato tutti i paesi. Vediamo se arriva l'impeachment. Salamino. 30 ma non li dimostra. E il merito, diciamolo, è tutto della città di Torino. Milano ha tentato lo scippo, organizzare una fiera disertata ai noi dal pubblico dei lettori, ma l'intendenza sabauda ha fronteggiato l'assalto. Apre la 30ª edizione del Salone del Libro e con Dante è proprio il caso di dire sì, miracol mostrare. A 15 anni ti si va, a 16 anni ti si be. Altro che santi, eroi, navigatori ed esploratori, l'Italia dei licei, dei lincei e delle università è soltanto un popolo di... Capra! Capra! Capra! un popolo d'analfabeti. E per quanto Silvio Berlusconi abbia voluto rivalutare gli agnellini, sempre a capre finisce e il livello intellettuale dell'italiano medio è quello di una pecora zoppa. Siamo tutti ciucci. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Tutti magari scrivono, tutti pubblichiamo libri, ma nessuno se li legge. E nessuno, ahi noi, sa più come fare un dettato. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Che il mercato editoriale è diventato residuale. Sono venuti a mancare i clienti, pochi sono in grado di stare concentrati più di 3 minuti su una pagina. E l'unico tristo poema contemporaneo è l'elenco delle librerie uccise dagli italiani. Una vetrina di servizio pubblico qual è la libreria, che poi è un vero e proprio distributore di spirito critico, non ha avuto uno straccio di legislazione in grado di darle la sopravvivenza. E neppure più la televisione riesce a incoraggiare la lettura e la promozione dei cosiddetti bestseller viaggia solo su non libri di non scrittori destinati ai non lettori. Insomma, l'Italia unita si riconosce nelle pagine del libro Cuore di Edmondo De Amicis. L'Italia di oggi ancora non ha finito di leggere il libro delle barzellette di Totti. E se Torino riesce a tenere alto il segnale del salone e opera meritoria. Certo, con la fiera dei libri, Milano aveva chiesto un pizzo più che un tributo. Uè, te chi? Il tipo non ha pagato il pizzo. Bisogna fargli un paio di scarpe di cemento e buttarlo giù nel po'. Ma Torino ha risposto da par suo. Ma basta allora. Il tipo non ha pagato il pizzo, né? Bisogna fare un paio di scappe di cemento e poi buttarlo giù nel po'. Trenta, ma non li dimostra il Salone del Libro di Torino. E che dire, il libro è il miglior latte. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Mario, c'è ancora la bolletta? Beh, c'è una notizia brevissima, ti faccio sentire però sì. Prima un brano meraviglioso, almeno un frammentino che ci rilassa. Never Dies, Luverphonic, sono bravissimi. Bella. Mamma mia, che cosa meravigliosa. E meno meravigliosa è la multa che si è beccata dall'Unione Europea a Facebook per la gestione delle interazioni e dei dati con WhatsApp. 110 milioni, diciamoci la verità, per quel colosso Peanuts. Ma in ogni caso è interessante perché sono è un segnale anche. Sì, insomma, l'Unione Europea cerca di far valere un po' le leggi nel Far West totale che è diventato la rete di cui abbiamo visto appunto sì. Nella prima parte con però io penso che stia maturando una coscienza complessiva dell'esigenza sì. di regolare dal punto di vista fiscale le over the top. Beh, direi che è necessario. No, necessario sì, ma sì. Anche prima è sempre stato necessario, però prima si faceva finta che non fosse vero. No. Ti ricordi la polemica per la web tax quando è stata proposta? Forse la parola non era felice, e lì c'è stato un equivoco secondo me sullo strumento e sulla parola. Il tema della libertà d'impresa e della corretta del corretto comportamento dei titani di internet sul mercato Poi nell'identificazione del luogo della fiscalità. L'altro tema che secondo me va in parallelo, ne abbiamo parlato tante volte, ma sempre ribadirlo fa bene, è la questione del fatto che loro non sono piattaforme, sono veri e propri editori. Ma sono editori, punto, basta, tutti gli effetti, ormai è chiaro a tutti. Loro cercano di aggirare la cosa. Sì, ma non è possibile. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Mix 24. Chelsea Manning è libera. Dopo 7 anni di carcere negli Stati Uniti, ritorna in libertà l'ex analista dell'intelligence americana, che divenne la fonte primaria del caso WikiLeaks. All'epoca Manning si chiamava Bradley, era un uomo ed era un militare. Nel 2013 venne condannata a 35 anni di carcere per avere consegnato a Julian Assange decine di migliaia di documenti coperti da segreto di Stato riguardanti la guerra americana in Iraq. Documenti che Assange pubblicò facendo scoppiare il caso WikiLeaks. Nei 7 anni in carcere, Bradley è diventata Chelsea, dopo essersi sottoposta agli interventi per il cambio di sesso, portando avanti una battaglia per i suoi diritti anche con numerosi scioperi della fame. Il 17 gennaio scorso Barack Obama ha dedicato a lei uno dei suoi ultimi provvedimenti da presidente. 2 giorni prima della fine del mandato ha infatti firmato la grazia. Oggi Chelsea, dopo 7 anni di prigionia, è una donna libera. E quindi al caso WikiLeaks, alla talpa Chelsea Manning, che cerchiamo, dedichiamo la puntata dei gialli della storia di oggi dopo il giornale Mario. Mario, c'è ancora una piccola, sì, un episodio che sembrerebbe minimo, ma in realtà secondo me è molto significativo. Cioè, è stata lanciata una bottiglia incendiaria, una Molotov, contro la ditta Mello a Carmiano, che ha in appalto lo spostamento degli ulivi nel cantiere del gasdotto Tappo. Quindi non finisce la questa guerra. È una brutta cosa, perché la gente che lavora non stanno facendo niente. Sì, fanno, poi su questa storia degli ulivi veramente non c'è pace. Esatto, non si lanciano le Molotov, non è una cosa positiva. Beh, no, anche perché poi altrimenti noi pensiamo che la mamma dei cretini è sempre incinta. Sì. Quindi per favore, fate da bravi. Vabbè, e noi per chiudere con Gloria Guerrera, sentiamo cosa ha scelto per noi. Oggi una canzone per chi osserva nella città il gioco della seduzione malinconica. Gianna Nannini, I Maschi. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai.